Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Io non so nemmeno di che cosa stiamo parlando. Io in vita mia non ho mai parlato con nessuno, non mi sono mai seduto a tavola per aggiustare una partita e non so nemmeno come si fa ad aggiustare una partita. Non mi è mai venuto in testa di aggiustare una partita. Io veramente spero che la magistratura mi chiama per ascoltare, ma non ho mai risposto a un SMS che mi ha mandato. Penso che lo conosce mezza Serie A. Ma io con Bazzani non ho mai parlato e non mi ha mai proposto di alterare una partita. Io so soltanto che voglio, spero che ho la possibilità di chiarire questa mia situazione. Voglio chiarezza su questa roba qua, perché ripeto, e sono disposto ad andare in piazza e se sono colpevole che ho cercato di vendere una partita o ho pensato di vendere una partita, vado in piazza e mi ammazzo davanti alla gente, perché non ho più coraggio di vedere la gente per come mi hanno visto in tutti questi anni qua. E queste sono parole forti, perché veramente li penso. Adesso sono andato solo in maniera spontanea a portare i miei due computer, perché stamattina quando sono andati a casa mia a fare la perquisizione io non c'ero, e siccome loro avevano bisogno di acquisire queste cose, io senza nessun tipo di problema gliele ho portate adesso in maniera spontanea. Non ho, proprio per il fatto che non ho nessun timore, nessuna paura e nessuna vergogna nel far vedere loro quello che ho nella mia vita. Bazzani lo conosci? Che è? È una persona che conosco da 10 anni, come conosco altre centinaia di persone che negli anni ti chiedono biglietti, ti chiedono maglie, e da lì è nata questa cosa che lui, quando aveva bisogno, mi chiedeva i biglietti per venire a vedere delle partite. Avranno i contatti, avranno le telefonate, avranno i messaggi, speriamo che abbiano tutto questo, perché ho fatto della mia vita e dello sport nei valori un qualcosa di fondamentale, e veramente sentirmi oggi in questa situazione non è assolutamente giusto. È 5 mesi che ho iniziato un'avventura nuova, è 5 mesi che insegno i valori dello sport ai miei ragazzi, e sinceramente sentirmi dire queste cose mi ha fatto veramente male. They call it stormy Monday. Lunedì è un giorno terribile, ma martedì è peggio, caro Pier. Ciao. Ciao, come va? Benissimo, se non fosse per aver letto le prime 15 pagine di tutti i giornali sportivi oggi, c'era da essere laureato in legge. Tu sei laureato in legge? No, in economia, però insomma, un po' di esami di legge l'ho fatti. C'era da perdersi? Ma sì, è un gran casino. Io sono, adesso so che fra poco sentiremo anche Ruggero Palombo, oltre che Andrea D'Amico, che è il procuratore di Gattuso. Io sono indignato con prudenza, come scrive la Gazzetta oggi. Cioè, quindi questo è un ossimoro, no? È un paradosso, perché l'indignazione e la prudenza sono due cose che non vanno di pari passo di solito, però qui le accuse sono gravissime, ma la prudenza è necessaria, secondo me. E soprattutto, come dicevo ieri, questa è una società ormai quale il peso dei magistrati, ma non delle sentenze definitive, semplicemente delle indagini, io parlo a ogni livello, sta diventando un peso capace di superare la politica, capace di superare qualsiasi altra regola, qualsiasi altra logica. Quindi, con il massimo rispetto per i magistrati, qui però abbiamo la vita di alcune persone che è già di fatto rovinata, perché l'immagine che in questo momento hanno Gattuso e Brocchi agli occhi del mondo, con la velocità di propagazione delle notizie che c'è oggi, è completamente rovinata. Poi magari fra, e glielo auguro di cuore, fra 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi o un anno si chiarirà che sono completamente estranei, ma chi ripagherà di tutte queste, di queste voci. Detto questo, ti leggo i primi tre messaggi arrivati al 349-238-6666. Gattuso buffone, Gattuso riposa in pace, Gattuso colpevole, non ci crederò mai. Gianni da Siracusa. Ricordo anche i contatti 800-24-0024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure potete seguirci su Twitter, @ tutti convocati. Questo per dire che ovviamente l'impatto è stato forte, l'impatto mediatico non poteva essere diversamente. Secondo te che idea si è fatto Toir, che sta girando per l'Italia, che idea si è fatto oggi a sfogliare la Gazzetta dello Sport, i giornali in generale? No, ma l'idea lì non è solo Toir, che è l'ultimo, diciamo, ad averci messo dei soldi nel calcio italiano, perché a ogni livello, indipendentemente da quanti soldi uno abbia speso nella sua vita per il calcio o di quante giornate gli abbia dedicato, di quanta passione ci abbia messo, siamo tutti coinvolti, come cantava De André, ma in questo senso in positivo, siamo tutti parte civile di situazioni di questo tipo, siamo tutti vittime di questo genere di situazione, ovviamente se dovessero essere confermate le accuse. E pare lo stesso discorso che vale per i singoli, per Gattuso e per Brocchi, cioè il calcio ne esce male, ne esce malissimo, e poi bisognerà capire se ancora una volta ci sarà una sproporzione clamorosa fra l'impatto mediatico di queste inchieste e poi le conclusioni, perché insomma, se avessi dovuto dire in quel giorno a Coverciano con l'ingresso dei carabinieri della Guardia di Finanza nella sede del ritiro della Nazionale del 2012, sembrava una cosa enorme, poi di fatto sappiamo che a livello di conseguenze pratiche ce ne sono state pochissime. Sì, è anche vero, e per fortuna oggi il CONI mette mano alla riforma della giustizia sportiva, che cambierà qualcosa, ad esempio cancelleranno quella sorta di terzo grado politico dove si patteggia, si fanno sconti, a prescindere anche da quelle che sono le evidenze. They call it stormy Monday. Dimmi solo se sei più offeso o più arrabbiato. Carlo, è una roba assurda, è una roba incredibile. Mi sento offeso e arrabbiato perché non so veramente cosa vogliono da me. Io non so nemmeno come si fa a truccare una partita, ma veramente. Adesso vediamo oggi cosa esce fuori. Però vuoi uscire proprio che la tua carriera non sia neanche leggermente sfiorata? Ma ti sto dicendo, ma io non so nemmeno come si fa. Se tu mi dici come si fa a truccare una partita, io non lo so da dove cominciare. È questo che non riesco a capire. Comunque chiarirei tutto. Ci mancherebbe che chiarirò tutto. Oh, che poi, caro Pardo, diventano tutti esperti di giustizia sportiva, di ordinanze, 212 pagine. C'è un amico che scrive al 349-238-6666: non c'è nemmeno una prova contro Gattuso, è colpevole solo del reato di amicizia, è un chiaro e vigliacco attacco al Milan di Berlusconi, come non vederlo? Secondo me non bisogna nemmeno esagerare, da questo punto di vista. Anch'io sono prudente, perché il passato ci insegna a essere prudenti, però attenzione poi, perché i magistrati vanno anche rispettati nel loro lavoro, e lo stesso vale per i giudici sportivi che un giorno erediteranno quelle carte. Sì, assolutamente. Io non ci vedo complotti. Io ripeto, vedo nella storia giudiziaria del nostro paese legata allo sport questa combinazione che diventa terribile in certi momenti, no? Con questa velocità di propagazione delle notizie che fa sì che il primo vero processo è un processo mediatico, è un processo di opinione pubblica, e questo aspetto mi fa paura, sinceramente mi fa paura. Sì, c'è anche chi dice, chi si ricorda che Paolo Rossi fu condannato per il calcio scommesse, il tempo poi consente anche di cancellare questa memoria. Oggi Pier ha parlato il presidente della Federazione Abete. Ha detto: grandissima fiducia in Gattuso, conoscendolo non mi sembra possibile, sono certo che uscirà pulito da questa vicenda, quando ci dovesse essere, e spero non ci sarà, un provvedimento giudiziario che riguarderà Gattuso, solo in quel momento potrò prendere in considerazione una situazione che al momento non considero possibile. Voglio chiedere, e saluto Andrea D'Amico, che è procuratore e amico di Rino Gattuso, come prende queste parole, come prende anche tutto quello che ha letto oggi sui giornali? Ma diciamo che con grande emozione e con emozioni contrastanti a volte, però mi sembra un po' tutto assurdo, nel senso che nella civiltà, se dobbiamo parlare di civiltà, le cose non dovrebbero andare in questo modo, cioè uno dovrebbe andare sui giornali quando comunque ci sono delle prove su una sua presunta appunto colpevolezza, poi dopo avere la possibilità di esperire la sua difesa e poi dopo arriva a un giudizio. Qui invece si arriva sui giornali soltanto con delle cose assolutamente indiziarie, diciamo così, i tabulati la fanno da padrone solo perché ci sono degli sms a cui non c'è risposta, e questo basta per buttare in pasto all'opinione pubblica il sospetto? Mi faccio questa domanda. No, secondo me non basta. Come pure sappiamo che il sospetto nella nostra civiltà equivale già ad un danno procurato, dal quale non ti può risarcire nessuno, perché non è che fra una settimana o un mese comunque il cittadino abbia il diritto di dire: scusa, ci siamo sbagliati, diciamo a tutto il mondo che non c'entri nulla, oppure sì, effettivamente ci sono delle cose di cui sarai chiamato a rispondere e ti difenderai in giudizio. No, non va così. Uno rimane per 2-3 anni con il suo nome inserito in queste indagini, con un peso che magari non è un peso suo, e poi dopo sì, l'opinione pubblica comunque associa il tuo nome ad una, comunque a una fattispecie di reato, no? Sì, si resta comunque a livello di memoria, di immagini in qualche modo segnati, detto che poi noi tutti ci auguriamo che Rino Gattuso, vero Pier, riesca a dimostrare l'assoluta estraneità, professiamo comunque anche fiducia nel lavoro dei magistrati che, lo ripetiamo, va rispettato. Pier? Assolutamente. Io penso che se ci mettiamo a discutere la magistratura cadiamo inevitabilmente nella anarchia, non è neanche il caso, esatto. Anche perché non è che ce n'è un'altra, non è che possiamo scegliere fra due magistrature, cioè o si decide che la magistratura non conta e quindi è il caos, oppure la si accetta, consapevoli che come tutte le cose della vita ci saranno quelli più bravi e quello meno bravi, come in qualsiasi professione. Detto questo, il punto che dice Andrea è il punto fondamentale, solo che è un meccanismo che non riesco a trovare una soluzione a tutto questo, perché la velocità della comunicazione nel mondo di oggi è talmente grande che, insomma, noi ce ne siamo occupati qualche giorno fa sulla vicenda di Acerbi, no? Che per qualche ora era passato per un dopato, e abbiamo capito purtroppo che non era un problema di doping, ed è un po' lo stesso tipo di discorso, cioè c'è una velocità della comunicazione che è assolutamente folle, e in questo momento ha ragione Andrea, cioè Gattuso. Ma scusa Pier, ma proprio sì. per questo uno prima, sapendo che è così, proprio siccome ci sono dei reati che sono aggravati se commessi a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione di massa, perché un reato che viene soltanto diffuso così verbalmente ha un'incidenza minore come danno sul danneggiato rispetto a un reato che viene gridato con uno strumento grande. Quindi quando si tratta di un personaggio così pubblico, secondo me di un cittadino pubblico, bisognerebbe avere un'accortezza nel pubblicare superiore, no, non nel pubblicare, anche nel verificare prima di adottare determinate cose. Insomma, io credo però, scusa Andrea, credo che la procura di Cremona abbia fatto le sue verifiche, poi lì ci sarà un cammino all'interno della giustizia penale, si arriverà a un proscioglimento, a una sentenza. Queste sono delle tappe. Per ora nell'ordinanza non c'è nulla. Saluto Ruggero Palombo, vice direttore della Gazzetta dello Sport, che oggi firma in prima pagina con il direttore Andrea Monti: indignati con prudenza. Leggo solo un breve passaggio, intanto buon pomeriggio direttore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi, agli ascoltatori. Scrive: anche le virgole devono essere maneggiate con cautela quando nell'ordinanza si leggono parole come plausibile, possibile e ipotizzabile. È davvero il caso in sede di commento di tirare anche tutti noi il freno a mano. Io faccio una domanda che è per tutti, a partire da Andrea D'Amico, ma non ci sono troppi faccendieri, amici degli amici, portaborse, umanità varia che gira intorno ai calciatori, intorno ai ritiri? Abbiamo scoperto che Milanello, qualcuno ha scritto oggi, credo il giornale, sliding door, porte aperte. Poi in fondo non esiste anche un omesso controllo in tutta questa rete di rapporti che c'è intorno ai calciatori e al calcio, D'Amico? Ma Guarda, questi rapporti ci sono attorno ad ogni attività che comunque richiama interesse, quindi francamente sappiamo tutti, perché non dobbiamo essere falsi, che un calciatore nel momento stesso in cui diventa un calciatore molto famoso è avvicinato da una serie di soggetti più svariati, da chi ti chiede la maglietta, da chi ti chiama per avere... Sì, diciamo che un po' più di attenzione non guasterebbe, visto che si chiede ai magistrati, ai giornalisti. Però dobbiamo anche essere realistici nel fatto di dire che non è che quando ti devi fare una foto, quando devi entrare in contatto con uno che ti chiede dei biglietti o ti avvicina perché magari il presidente di qualche fan club o perché gli domandi il casellario giudiziale o la fedina pedale. Sì, sono rischi che si corrono, questa è la risposta. Se dovesse, probabilmente io che rispondo a centinaia di telefonate tutti i giorni e ricevo altrettanti sms a cui magari in parte non rispondo, non mi preoccupo, mi chiama sia con la pedina penale pulita oppure no, lo presumo perché comunque rispondo con la mia vita, ma non posso essere sì, io ci si auguro. Sì, guarda, questo io pensavo esattamente la stessa cosa, cioè prego, pensavo che nel mondo ma anche nel mondo dei giornalisti, cioè c'è una quantità di persone che girano attorno al mondo del calcio, che chiedono maglie, che chiedono biglietti, che vogliono fare un'intervista, che è enorme. Ora, ovviamente questo qui non è che scagiona, io penso che se i magistrati comunque stanno facendo questa inchiesta hanno dei motivi fondati per poterla fare. Però ecco, per esempio ho letto la cosa degli sms tutti inviati a Gattuso, adesso non voglio fare l'avvocato difensore, ma insomma... Sì, qualche dubbio non, viene... non posso pensare che ci sia soltanto questo. Ruggero ne ha scritto oggi. Ecco, esatto. Ma insomma, volevo 13 messaggi in un anno che ti scrive uno, cioè, tra l'altro senza risposta. Una spasimante non ricambiata manda 13 messaggi l'anno senza che gli rispondi. Allora chiediamolo a Ruggero Palumbo. E siamo pronti a sentirlo, a scoprirlo. Ed è interesse prima di tutto a questo punto di Gattuso che si faccia di Gattuso, certo, di Brocchi e degli altri, che si faccia chiarezza al 100%. Chiediamolo a Ruggero Palumbo. Ma... Gazzetta Indignati con Prudenza è il titolo. Cioè significa sposare comunque una linea secondo me garantista, prego. Sì, certo, ma se come sapete le 200 pagine dell'ordinanza di ieri contengono una ricostruzione sempre più minuziosa dei fatti relativi al 2015, dove mi pare che ci sia poco da discutere. Tanta gente, tanti giocatori, magari non di primo piano, ma insomma erano coinvolti in un giro di malaffare, di partite taroccate, sulla cui dimensione mi pare che, ripeto, non ci sia da discutere e che deve far mettere le mani nei capelli. Poi è chiaro che mediaticamente, ma questo è inevitabile, lo sa anche chi le scrive quelle ordinanze, il fatto nuovo di ieri è mettere nella centrifuga anche un paio di nomi più importanti degli altri. Nel caso di Gattuso, sul quale mi sono soffermato in una parte del pezzo, per cui c'è da una parte l'indignazione comunque per un sistema che evidentemente funzionava in un certo modo e su quello non c'è dubbio. Poi c'è la prudenza che è dettata dal fatto di vedere messi nella centrifuga dei nomi. Se uno poi va a guardare bene i motivi per cui questi nomi sono messi nella centrifuga, io ho scritto mi sembra un po' poco, voi l'avete ricordato adesso, che 13 sms 13. Spalmati in un anno e mezzo unilateralmente inviati da questo Bazzani dal CIV a Gattuso senza mai una risposta, siano elemento... Per tirare delle conclusioni. Ma c'è un po' pettose. Anche di effetto delusione per come sono finiti gli altri filoni di questa inchiesta, sì. Poi no, momento, portati il discorso, sul piano della giustizia sportiva. Consentimi di finire il discorso. Prego. E quindi difesa sicura di Gattuso, va però aggiunto anche che ai 13 sms bisogna aggiungere invece una ben più fitta corrispondenza di questo Bazzani con quello che viene indicato, l'amico, il quale addirittura il fratello, tra virgolette, di Gattuso. E questo riscontro avviene anche attraverso un giro di testimonianze che arrivano dall'estero, perché ci ha lavorato anche l'Interpol o quant'altri su questa storia, che è uno scandalo. E quindi cose da chiarire ci sono, non ci si può fermarsi ai 13 sms renderebbero questa inchiesta una macchietta. Convocati. 800 24 00 24. Chiudiamo, Pier, il discorso con Ruggero Palombo. La domanda, direttore: c'è anche un po' di delusione per come poi sono andate a finire, dal punto di vista del processo sportivo, le vicende degli altri filoni di questa inchiesta? Ma delusione c'è. Dunque, innanzitutto c'è da sottolineare che mentre la Procura di Cremona questa inchiesta la sta portando avanti da 3 anni e ne compirà tra poco, ed è lungi dal chiudersi, anzi c'è stato questo rilancio, quella di Bari, che pure aveva in mano tutto il capitolo dei tarocchi del Bari, che non era roba da poco, la sua bella inchiesta l'ha chiusa, adesso è in corso il processo penale e per quanto riguarda la giustizia sportiva si è potuti andare avanti a compimento. Per fermarmi alla tua domanda sulla giustizia sportiva, sicuramente ci sono state secondo me una serie di più o meno giuste sentenze, e poi c'è stato l'arrivo del CNAS, il Tribunale di Arbitrato per lo Sport, che è una specie appunto di arbitrato che arriva alla fine, dopo 2 giudizi, anziché essere una cosa che precede il tutto, un'anomalia, una stortura che infatti tra poche ore verrà abolita dal CONI, perché alle 5:30 ci sarà la conferenza stampa dopo la giunta CONI, il nuovo codice di giustizia sportiva dal 30 giugno di quest'anno e l'anno prossimo, sì, 2014, chiude lo scontificio. Il TNAS scomparirà e non esisterà più, e al CONI sarà solo delegato una sorta di Cassazione dello Sport, che prenderà un nome diverso da Cassazione, ma che comunque avrà quella valenza e interverrà solo sulla legittimità o meno delle sentenze, e non delle sentenze delle varie federazioni, ovviamente quella del calcio in testa, e non sul merito delle sentenze stesse. Io volevo aggiungere però una cosa. Prego, sulla questione di Gattuso, brevemente. Gattuso, per quelli che sono i documenti che sono dentro quella ordinanza, è sicuramente in questo momento, e devo dire che mi sembra che tutti i giornali si siano ispirati a una certa prudenza, più vittima di una situazione che mi sembra molto difficile. Si potrà indagare meglio su quello che è appunto il suo cosiddetto fratello, però voglio dire, mi sembra che Gattuso abbia la possibilità di uscirne pulito, molto di cui dolersi in questo momento per come è finito sulla graticola. Però devo anche dire una cosa, perché sentivo prima gli interventi precedenti, quando vedo nell'intervista di ieri Gattuso che con la massima tranquillità dice: ma Bazzani lo conosce mezza Serie A, io che sono vecchio e ho vissuto il calcio scommesse di Trinca e Cruciani nel 1980, qualche allarme scatta. Dico, sono passati qualche 35 anni, i giocatori importanti sono sempre più importanti e sempre più ricchi, e ancora 35 anni dopo noi dobbiamo fare i conti con gente che entra nei ritiri, frequenta, e i giocatori non si rendono conto con chi hanno a che fare. Questo è un aspetto, inquietante, direttore, grazie. Grazie a voi. Grazie a Ruggero Palombo. Pier, la cosa che ci scrivono anche in tanti è 349-238-6666. Per favore, ditemi come si fa a avere il numero personale di un grande calciatore. O ancora, credo che ogni persona nel proprio ambito lavorativo conosca chi gioca pulito e chi gioca sporco, e quindi c'è molta omertà. Questo è Riccardo. Non lo so. Devo dirti che sono più i messaggi indignati di quelli garantisti. Proviamo a sentire qualche ascoltatore. Sì, sì, ma io guarda, ti dico anche una cosa, esattamente come dico che appunto essere indagati, o soprattutto alla luce, come diceva anche Ruggero, di una situazione che non è che sia chiarissima, di un quadro indiziario abbastanza nebuloso da quello che si è capito fino a questo momento. Poi è ovvio che se ci sarà la colpevolezza, questa è una cosa di una gravità che non ha confini, è la cosa peggiore che può succedere attorno al calcio, è peggio della violenza negli stadi, perché è questa qui sarebbe ontologicamente la fine di tutto. Nel momento nel quale i giocatori si vendono le partite, vuol dire che tu sei andato a vedere uno spettacolo che è assolutamente finto, è come essere andati a teatro di fronte a una messa in scena, quindi è il fallimento proprio implicito del motivo per il quale uno va a vedere una partita. Quindi il concetto è senza se e senza ma. Se c'è la colpevolezza, chi si vende le partite, chi scommette sulle partite, chi tarocca le partite, per me è tutto. Da radiare, non c'è discussione su questo. Però che ci sia, come diceva Ruggero Palombo qualche istante fa, di fronte a una situazione indiziaria abbastanza nebulosa, il dramma di persone che vengono improvvisamente scaraventate in prima pagina in tutto il mondo e che magari fra 4 settimane o fra 6 mesi si scoprirà che non hanno fatto niente, ma questo è un danno che non può essere, secondo me non potrà mai essere risarcito, e questo è un meccanismo che secondo me è perverso. 800240024, Matteo dalla provincia di Milano. Matteo, buon pomeriggio. Ciao. Prego. Volevo fare 2 domande. Dica. A Pardo. Prego. Allora, la prima è, volevo sapere di che squadra è tifoso. Sì. E la seconda è una domanda tecnico-tattica. Ma come mai quando vedo le partite del Milan mi chiedo sempre, come mai nessuno fa movimento senza palla? Cioè, gli avversari hanno palla, ma nessuno si... cioè, quando i giocatori del Milan, uno ha palla, nessuno... Sì, sono tutti abbastanza fermi, Matteo. Pier? Ma sul Milan sicuramente ci sono vari problemi, questo è uno dei problemi, certamente. Non c'è neanche, devo dire, una grande qualità nella costruzione della manovra, nel senso che comunque al di là di Montolivo, che è un buon centrocampista, poi il Milan in mezzo al campo non ha delle grandissime idee, e questo secondo me non aiuta. Poi c'è anche questa componente qui, sicuramente ci sono squadre che si muovono meglio, ad esempio la Roma si muove meglio dal punto di vista dei movimenti, la Juve ha un'altra intensità, quindi c'è anche questa chiave che, unita a una difesa fragile dal punto di vista dei giocatori, proprio dal punto di vista della qualità, e a una certa mancanza di qualità e impostazione della manovra, fa sì che il Milan abbia una classifica così. Sul tifo io sono come la bottiglia della Sambuca di Mourinho, sono trasparente, sono anaffettivo proprio, sono ormai... Hai raggiunto la pace dei sensi. Ho raggiunto la pace dei sensi. Nicola, dalla provincia di Chieti. Salve, torniamo su Gattuso, se sì, permettete. Sì, prego. Niente, io praticamente da tifoso del Milan, tifoso del più grande giocatore, che lo definivo uno dei migliori del mondo, che era Gattuso, praticamente l'indignazione fino a 10 minuti fa era tanta, adesso con le vostre parole, le vostre... Sì, noi non vogliamo fare gli avvocati di Gattuso. Perdonami, io lo voglio chiarire, perché ce l'hanno scritto in tanti, anche il 349-238-6666, tabulati, intercettazioni. Oggi avete letto tutto, avete letto anche gli editoriali. Noi abbiamo provato a cercare di spiegare quale può essere una posizione indignata ma con prudenza, però non stiamo facendo gli avvocati di nessuno, poi noi osserveremo, faremo gli osservatori del lavoro della magistratura. Prego Nicola. Un po' a tutte le telefonate che sono arrivate. Io praticamente mi chiedevo, invece, la telefonata la facevo per questo, ma almeno sulla giustizia sportiva, almeno quando ci sono questi casi di personaggi così eclatanti, non si potrebbe rallentare un attimino, cioè a questo punto chiamare prima Gattuso e poi dire che è indagato, non era meglio? Se nel caso Gattuso avrebbe dato la possibilità di chiarire prima di finire sui giornali, prima di finire di essere in questa macchina. Sì, Nicola però vale per Gattuso e vale per le altre decine di migliaia di persone che affrontano un'inchiesta, Pier, anche a prescindere dal calcio scommesse. Poi la giustizia penale ha i suoi tempi. Non credo si possa invocare un percorso parallelo perché si è calciatori. No, ma poi soprattutto nel momento nel quale vieni chiamato per chiarire sei tecnicamente indagato e non... E quindi di fatto è la stessa cosa. Il punto è quello. Qui hai fatto benissimo, Gio, a ricordare che io non voglio fare l'avvocato di nessuno, né dell'accusa né della difesa, anche perché non so come sono andate le cose, e ribadisco quello che ho detto 2 minuti fa, che se per caso Gattuso, Brocchi, gli altri giocatori coinvolti fossero colpevoli, per me c'è la radiazione, perché stiamo parlando di una cosa che non è grave, è gravissima se venisse confermata. Il punto è che ci dovrebbe essere la presunzione di innocenza, e che in una società mediatica come questa invece vieni sbattuto in prima pagina in tutto il mondo ed è finita. Cioè un tipo di danno che nessuno ti potrà mai ridare, un danno già in occasioni perdute dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'immagine. Come fai? Cioè ti cambia tutto improvvisamente, per che cosa? Quindi il punto è tutto lì, il garantismo è soltanto quello, non è nel è soltanto di come viene trattata in queste ore, cioè, questa non notizia non è dire siamo tutti innocenti, è semplicemente no, anzi noi siamo curiosi di sapere se poi sono tutti innocenti o no, anche sui tempi ci sarebbe qualcosa da dire, la vicenda di Mauri credo sia simbolica. Gianluca da Milano. Sì, buongiorno. Prego. Salve, grazie per avermi ospitato. Io chiamavo, mi dispiace che non c'è più il direttore in linea della Gazzetta dello Sport, sì, per fare una semplice domanda. perché io vedo che comunque adesso hanno una linea garantista loro, però quando c'è il ballo alla Juventus non hanno mai avuto questa linea garantista. Subito hanno iniziato a colpire la Juve dicendo che era colpevole e quant'altro. Anche ieri mi sembra c'era su online, sul sito della Gazzetta, un richiamo alla famosa confezione di Carrobbio sul fatto di Conte, quando è già stato giudicato per quel tipo di... Sì, non è l'unico giornale che ne parla, di quello che dice Coppola su Conte, poi Conte è già stato giudicato dalla giustizia sportiva e quindi la questione è chiusa, però io credo che raccontarla sia lecito. Ci fermiamo, traffico. Tutti convocati. Come mai per Gattuso tutta questa delicatezza? Conte invece lo avete massacrato subito, siete garantisti soltanto adesso. Bonucci è stato ammazzato e poi è stato assolto. Sono tanti che scrivono, ad esempio, che esiste una disparità di trattamento tra la Juventus e il resto del mondo. Questa è una tesi che io sinceramente non sottoscrivo, poi ognuno difende il suo operato. Mauro dalla provincia di Treviso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Sì, anch'io volevo intervenire a proposito di questa faccenda, anche se io mi dichiaro juventino, ma da questo punto di vista non sono d'accordo con i miei colleghi. Però volevo sottolineare che all'immagine di Gattuso, secondo me, non fa bene neanche quello che ha detto il suo procuratore. Cioè, io non capisco perché il suo procuratore debba dire che, essendo un personaggio pubblico, essendo un personaggio famoso, bisogna fare doppia attenzione quando si indaga e quando si pubblicano le cose. Anche in altri settori questo non avviene, quindi proprio non capisco perché se n'è uscito così d'amico. Beh, se n'è uscito così Pier perché d'amico cura gli interessi di Gattuso, ma io credo sia più che altro uno sfogo umano. No, ma perché, anche perché, comprensibile, perché la persona comune non finisce in prima pagina sui giornali. Credo che questo fosse il senso del discorso di d'amico. È ovvio che il fatto che l'immagine di una persona, indipendentemente dal lavoro che fa, venga lesa da un'accusa di questo tipo, dal fatto di essere indagato, vale per tutti, indipendentemente dal reddito e dal lavoro che fai. Su questo non c'è mezza discussione. Credo che fosse semplicemente un discorso sul fatto che chiaramente il personaggio pubblico poi viene sbattuto in prima pagina, mentre lo sconosciuto no. Credo che fosse soltanto questo, però ripeto, io posso dire invece una cosa sulla Juve di prima. Sì. Io credo che qui il punto veramente non è... Ancora una volta, come sulla violenza, come sulle curve chiuse, come qui il punto non è dividersi in una squadra piuttosto che in un'altra. Qui l'interesse di tutti dovrebbe essere lo stesso, perché io non credo che nessun tifoso di nessuna squadra voglia neanche vincere uno spettacolo che è finto. Quindi questa cosa qui, se confermata, è talmente grave che bisogna andare a fondo, bisogna farlo dalla maniera più assoluta e più ferrea possibile. Però il discorso che continuo a fare è un discorso su quello che succede all'immagine della persona. Io mi ricordo Criscito, ero a Coverciano quando è arrivata la polizia, e di fatto Criscito ha lasciato l'europeo. L'impatto che questo tipo, e Bonucci l'ha giocato l'europeo perché Prandelli l'ha tenuto, ma l'ha giocato comunque sicuramente condizionato dal punto di vista psicologico dalle accuse che arrivavano in queste ore. Bonucci, beh, giochi nella Juve, quindi, ma non è un discorso di Juve, di Genoa, di Inter, di Genoa. Sì, c'è un discorso di come vanno manipolate queste cose. Capito? Maneggiare con cura, questo è il punto. Sai chi la pensa come te, Pier? Presidente del Palermo Maurizio Zamparini, che saluto. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a tutti voi. Io ho letto una sua dichiarazione ieri. Questo filone d'inchiesta non mi interessa nemmeno, io non leggerò i giornali, facciano i magistrati e poi ci dicano. Ce la spiega? Ma niente, io penso che in un paese normale, e noi non siamo un paese normale, la giustizia non si fa con le conferenze stampa, ma si fa nei tribunali. Si fa vedendo, colpendo i reati, condannando i colpevoli e senza fare spettacolo. Noi abbiamo una giustizia spettacolo, non solo nel calcio, ma in tutte le situazioni della nostra vita pubblica, e questo non va bene. Siamo un paese di seconda categoria. Ecco, io volevo dire solo questo. La giustizia deve fare il suo corso, deve condannare quelli che trova colpevoli, ma se un indagato da anni da noi diventa colpevole ancora prima di trovare le prove, di fare un processo, non mi sta bene, e soprattutto che diventi colpevole sui giornali. Ma lei su Gattuso metterebbe una mano sul fuoco? L'ha conosciuto? Io non metto una mano sul fuoco su nessuno. Io Gattuso l'ho conosciuto e lo ritengo, io gli darei il mio portafoglio sicuramente, perché lo conosco. riconosciuto come una persona seria. Gattuso è una persona che, quando in Russia gli hanno offerto 5 milioni di stipendio per 3 anni, ha preferito la famiglia, ha preferito restare qua in Europa, per cui non è uno che si fa sicuramente abbindolare per i soldi, e quelli erano tanti soldi. Per cui Gattuso è un ragazzo che è venuto da me a fare l'allenatore guadagnando un terzo di quello che guadagnava con l'ultimo contratto in Svizzera, perché pensava al suo futuro. È un lavoratore, perché ha dei pescherecci e ha delle vendite del pesce dove lui tutte le mattine si alza alle 7 e va a lavorare. Per cui è un ragazzo che io stimo e ammiro come uomo. Mi sembra impossibile che lui possa essere coinvolto in queste cose. Ecco, andare a mettere una mano sul fuoco, io non la metto con. Quindi perché, perché esce? Perché esce il suo nome? C'è ricerca di pubblicità? Perché, cosa c'è? No, ma quando uno fa la giustizia spettacolo, ma a me non piace che un PM faccia una conferenza stampa. Un PM deve rinviare, chiedere al giudice di rinviare a giudizio un colpevole per seguirlo, ma non deve andare sulla stampa, non deve fare l'attore. L'attore è un'altra cosa. Amministrare la giustizia è una cosa troppo seria. Ma non ci sono, Presidente, troppi faccendieri, amici, portaborse intorno ai giocatori, ma dentro i ritiri? Sempre, ma questo da sempre, questo da sempre. Dove poi con le scommesse, noi in Italia che non abbiamo la cultura della scommessa, vede, la cultura dello sport, in Inghilterra scommettono su tutto. Ma in Inghilterra, cioè, lei non vedrà mai un giocatore buttarsi per terra e fingere di essere stato colpito per convenienza, perché i suoi tifosi non lavorano più, hanno una cultura dello sport. Noi non abbiamo la cultura, per cui da noi è devastante questo interesse economico delle scommesse, e mancando di una cultura. E sicuramente trovano e troveranno sempre fra i più deboli, fra i giocatori, fra gli addetti ai lavori, qualcuno. Il sistema è permeabile, non è tutto incredibile quello che leggiamo. Per cui bisogna fare molta, molta attenzione e sicuramente cercare di prevenire. Io ho sempre osservato con molta attenzione sempre le mie squadre, sono stato vicino ai miei ragazzi. E uno, se ha occhio, se ne accorge subito se c'è qualcosa che non quadra, eh? Per cui non occorre il magistrato, ce ne accorgiamo anche noi. Io sono rimasto stupefatto, però un po' meno quando ho visto i fatti dell'ultimo processo, dove ho visto le somme che girano, insomma, e c'è da avere paura. C'è da avere paura. Pier. Però, ripeto, va fatto nei tribunali e non sulle conferenze stampa. Pier. Presidente, in generale, lei in questi anni ha mai avuto sospetti? Non parlo del Palermo, non parlo di partite in generale, ma il senso del sospetto, no? di partite strane, è un qualcosa di completamente estraneo. Le partite di fine campionato sono sempre state strane, sempre, ma anche le partite ai mondiali di qualificazione poi sono strane, voi lo vedete, è inutile chiudersi gli occhi, no? Ma non strane per le scommesse, sono strane perché gli interessi in gioco sono talmente alti. Io mi ricordo un 2-2 Danimarca-Svezia, mi sembra, sì, no? Sì, sì. Ecco, bravo. E poi anche noi ne faremo noi nel campionato italiano. La Serie B è qualcosa di terrificante nelle ultime 10 partite. La Serie A molto. Cioè, meno. Ci sta dicendo che le ultime 10 partite della Serie B sono il campionato combinato. Noi facciamo finta di non saperlo, però se ce lo dice lei fa il giornalista, è grave. Ma anch'io non lo so. Io lo intuisco, ma lei che fa il giornalista non faccia lo gnorri, anche lei lo intuisce, non cada dalla torre, io non ho prove, per cui quando andavo al processo di Biscardi mi dicevano sempre, ma perché parli così che non hai prove? Io ho detto, io la penso così, io vedo dei risultati strani nelle ultime partite, ma sono risultati strani. Uno mi dice, vabbè, io ti denuncio perché non hai la prova, ok, hai ragione tu, non posso, però io non è che dico è così, dico che da sempre è così, ma da 50 anni. No, per cui noi non abbiamo questa cultura, che va invece iniziata dalle scuole, va iniziata quando i bambini sono piccoli, va iniziata dai genitori, che non devono andare a vedere le partite delle giovanili e dire ai loro figli picchialo o dagli un calcio perché vanno là non per fare sport ma per vincere, per fare carriera, non va bene. Ecco, è da lì che nasce tutto. Però da quello che è nato ieri, io dico solo una cosa, che la giustizia, che è la cosa più importante che una nazione ha, va fatta nelle sue sedi. Insomma, si fida poco delle conferenze stampa e di quello che viene pubblicato sui giornali. Grazie, Presidente. No, non è che non ci credo, che ci credo poco. Non mi piace che venga fatta la giustizia sui giornali e che si rendano dei colpevoli prima di essere processati. Certo. Io mi ricordo Tortora, se lo ricorderà anche lei. Ecco, non mi piace quella giustizia. Grazie, Presidente Zamparini. Ok, saluti. Pier, resti con noi? Sì, che poi proviamo anche a parlare di qualcos'altro, sì, perché magari, siamo un paio di settimane dal mercato, proviamo a capire chi si sta muovendo, ci fermiamo, notizie. Tutti convocati. non scrivo niente particolare, solo c'è gente che scrive di tutto. Io non so se avete visto meno di 1000 tweet, non scrivo niente particolare. Un buongiorno, una buona sera e un po' di foto, basta. Non so, caro Pier, se hai visto i tweet di Icardi ultimamente. No, mi sono perso le ultime. No, le meno ultime di 1000 ne twitta. No, 998 su Vandanara. Un buongiorno, buonasera. No, se uno può bastare un tweet per incasinarsi. Ma sai, lì c'è molta. Io non lo so, cioè non lo so. Non so se. No, ma noi non ce ne frega niente, è che ci diverte da morire. Sì, ma insomma, il mio consiglio, ma poi facesse come gli pare, anche perché non penso che abbia bisogno dei miei consigli, è di usare WhatsApp, di usare Facebook, di scrivere alla sua amata le cose più alte, più divertenti e più intriganti e più arrapanti che vuole, ma di farlo, secondo me, in forma privata. Siccome Twitter invece è il social network più pubblico che c'è, però insomma, se invece l'obiettivo era scatenare il voyeurismo, ci sono riusciti benissimo, ma va bene, ma sono fatti loro, l'amore che vince e il male che perde, come dice Verdone. Assolutamente. Caro Luca Marchetti, collega di Sky, esperto di calciomercato, ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Icardi non twitta. Come va? Va bene. Sorridevo mentre sentivo Icardi che diceva buongiorno e buonasera. Sì. Fossero tutti così, buongiorno e buonasera. Ma sì, scherzi. Ma lui dice buongiorno mio amore, te amo, te pregunto, te ribalto. Poi alla fine dice buongiorno, y después, buonasera, quando se incontramo de nuevo e te rimetto a passo de... capito? Sì. Si scherza, fermate Pardo, Maurizio. Sì. Fermate Pardo e fermate anche Icardi. Caro Luca Marchetti, Icardi resterà titolare dell'Inter a gennaio. Parliamo un po' di mercato, dai, perché mancano un paio di settimane. Poi avremo un mese per raccontarlo, per illuderci di essere ancora importanti. Ma si muove ancora qualcosa? Si muove già qualcosa? Si muove già qualcosa, per esempio, in casa Inter, perché il Chelsea ha chiesto Guarin. Secondo me è una trattativa che si chiuderà a breve, fra i 15 e i 18 milioni, magari con quei soldi l'Inter qualcosa va a prendere, magari perché no un compagno d'attacco ai Cardi. Mm, sì. Perché Maxi quello Lopez. Credo che serva di più. No, scusate, non ho resistito, perdonatemi. Però faceva questa cosa, potrebbe passare tutto da un'altra. C'era questa voce? Sì, la voce. Cioè che Maxi Lopez, se non ci fosse stata tutta questa... Ma quale voce, Pier? No, l'avrei letto su Twitter. Dai, no. Chiediamolo a Luca Marchetti, che è serio sul mercato, Luca. No, serio no, però sono più di lui sicuramente. No, non credo, Maxi Lopez all'Inter, no, mai sentita io. No, okay. No, non risultava. L'avrei letta su Twitter, pensa. No, neanche. Io l'avevo invece l'ho sentita, però chiaramente come una possibilità che non si è concretizzata per ovvi motivi di opportunità. Ecco. Mm. Luca credo che anche se ci fosse stata, ecco, sarebbe naufragata. Sì. Sì, decisamente. Luca Marchetti, ma è vera questa voce che Bardi potrebbe entrare in una trattativa per Nainggolan, che i tifosi dell'Inter si chiedono che senso abbia a quel punto tutto il discorso sui giovani, tutto il nuovo corso dell'Inter? Guarda, io penso che sia plausibile, non so se poi sarà percorribile, perché bisognerà anche vedere che fine farà Handanovic, che è vero che è il titolare dell'Inter, ma come tutti i giocatori dell'Inter è sacrificabile qualora dovesse arrivare un'offerta. È vero che probabilmente a Barcellona andrà Reina e che quindi il posto del portiere del Barcellona sarà occupato da lui, sai che si parlava di Handanovic soprattutto la scorsa estate. Io credo che se Bardi dovesse rientrare, se potrebbe essere una chiave, magari la comproprietà. L'Inter a queste cose ci ha abituato, ha lasciato, fra virgolette, per strada molti giocatori anche in comproprietà per poi pagarne l'altra metà tanto. Però in alcuni casi sei obbligato a farlo, altrimenti non arrivi ai tuoi obiettivi di mercato di oggi. Mm. Pier, hai qualche curiosità? No, la sensazione è che Toir farà a gennaio un mercato a costo zero, cioè che sì, l'eventuale cessione di Guarin potrà essere compensata da un acquisto, ma che insomma la somma algebrica sarà zero? Sì, ho le stesse tue informazioni, Pier. L'indicazione da Moratti a Toir non è cambiata. Autofinanziatevi il mercato, almeno per adesso. Io credo che per il momento sia anche la cosa più giusta da fare per Toir. Non ha cambiato nulla. Non vuole investire in questo momento soldi prima di conoscere meglio i suoi collaboratori, i suoi futuri collaboratori, posto che rimarranno questi. Ti chiede Michele da Valenza, notizie di Xavi Alonso e Agger al Napoli. Wenger è stato richiesto il prestito. Xabi Alonso, secondo me, rinnova con il Real Madrid. Sì, e poi mi sembra un profilo, non so se è raggiungibile, ma lontano da quelle che sono le possibilità oggi del calcio italiano. Il derby su D'Ambrosio esiste solo sui giornali o in realtà il Milan rischia di farselo sfuggire? No, io credo che il Milan invece lo prenderà D'Ambrosio o a gennaio o a giugno, e credo che l'Inter abbia fatto un sondaggio per capire com'è la situazione, perché comunque D'Ambrosio a zero è comunque un colpo, e quindi tutte si sono informate, quella più avanti ci risulta essere il Milan. E quindi difficilmente si può riaprire questa trattativa. Pier, invece tu cosa pensi che faccia? Poi lo chiediamo a Marchetti, che è quello serio. Cosa pensi che faccia la Juve? Grazie. Che ha perso per strada la Champions, poi non si è capito quanti milioni ha perso, ma ne abbiamo parlato con Belinazzo, insomma, sapete tutto. Secondo te come si muove a gennaio? No, secondo me la Juve è un po' ridimensionata dal punto di vista economico da questa uscita dalla Champions League, un po' per un discorso di entrate, perché chiaramente non avrà le entrate che sarebbero arrivate in caso di passaggio di turno, e un po' anche dal punto di vista degli stimoli, nel senso che mi sembra onestamente che, insomma, uno spende anche se deve fare un salto di qualità. La Juve in questo momento, adesso vedremo quando andrà a finire Juve-Roma, come andrà avanti il campionato, ma rischia di essere a fine gennaio saldamente in testa alla classifica. Sì, certo, l'Europa League è un obiettivo, ma insomma non mi pare che serva più molto. Quindi io non mi aspetto grandi colpi da parte della Juve. Mi sbaglio, Luca? No, non ti sbagli. Io credo che abbia accelerato invece il processo delle cessioni, soprattutto quelle di contorno. Io non credo vadano via Big adesso a gennaio, probabilmente neanche a giugno, se parliamo dei centrocampisti, che sono quelli che fanno più gola. Però qualche attaccante potrebbe partire. Giovinco, Quagliarella, Vucinic hanno molto meno spazio rispetto a prima, non c'è più la Champions, che comunque ti permetteva di andare in panchina con un animo diverso rispetto all'Europa League o alla Coppa Italia. Questo tipo di trattative la Juventus le porterà avanti, magari anticipando un po' le tempistiche. Comunque la Juventus nel mercato di gennaio, se fosse passata, avrebbe avuto qualche chance in più, come diceva Pier, di andare a prendere giocatori importanti, no? Seguiva Lucas, Nani, per dare ancora più qualità a un organico importante. Adesso potrebbe non avere la necessità. Quindi l'amico che chiede, anche meno appeal. All'amico Luca che chiede di Vucinic se va via subito a gennaio, la risposta è probabilmente sì. No. Sì. Probabilmente no. Per prima, se ci fosse stata la Champions, avrei detto no. Se senza Champions dico perché no. Cioè se nasce l'opportunità, secondo me la Juventus e lo stesso Vucinic ce la colgono. Il Paris Saint-Germain è un supermercato in questo mese di gennaio, si parla di Lavezzi, di Lucas, magari anche Pastore, che però interessa in Premier. Anche Menez. Gli scontenti sono sempre ambiti, soprattutto come dicevi tu prima, in questo periodo storico per il calcio italiano, che non è più competitivo ai massimi livelli, per i supercampioni ti accontenti di quelli che sono scontenti, che sì, carissimo sono il mercato di Parigi. Certo, carissimo il mercato di Parigi. Non ci arrivi. A competere con questi club non ci arriva più il calcio italiano. A prenderli e per fargli un favore di allontanare quelli che sono scontenti, invece sì, diventa un mercato di rimessa in qualche modo. Questo per dire che i tifosi dell'Inter possono sognare Lavezzi, ma è difficilissimo, come direbbe Galliani, 99,9% no. Lo puoi prendere, ma non puoi prendere in questo momento Cristiano Ronaldo, non puoi prendere Messi. Non puoi prendere Ribéry a meno che non abbia una voglia pazzesca di venire in Italia. Ibra sicuramente è un giocatore che ha amato il nostro campionato molto, ma insomma quello dice Luca mi sembra abbastanza evidente. Le teste di serie numero uno non le puoi prendere. Puoi prendere dei giocatori importanti, quest'anno ne sono arrivati almeno tre, al di là di Strootman, ma sono arrivati questi tre grandi attaccanti, Higuain, Tevez e Gomez, e quella dimensione lì la riesce ancora a prendere, perché grazie a Dio abbiamo ancora dei club, un campionato e una forza di tradizione che ci rende competitivi. Sì, appena ti alzi di un gradino invece non ci arrivi più. Esatto. Pier, abbiamo finito, salutiamo Luca Marchetti. Ciao Luca, grazie. A voi, una Ternana, che buona giornata. Alla prossima. Com'è? La Ternana? Non lo so, si allena, immagino. No, dico sul mercato, che fa la Ternana? No, non lo so. Non fa niente, idea. Non fa nulla, la Ternana non fa nulla sul mercato. abbiamo finito qui, grazie Pier. Ciao ragazzi. Ci vediamo domani. Io ringrazio anche Franco Piantanide, autore di questo programma, Robby Scaltritti in regia. L'appuntamento domani a partire dalle ore 14. Un saluto anche da Giovanni Capuano.